Salve, questa è la Blanderata. Non riesco a vedere niente che non mi piace in te. Ma lo vedrai. Certo, col tempo lo vedrai. E io invece mi annoierò con te e mi sentirò in trappola, perché è così che mi succede. Ok. Odio tutto questo. Odio cosa? I silenzi che mettono a disagio. Perché sentiamo la necessità di chiacchierare di puttanate per sentirci più a nostro agio? Non lo so, è un'ottima domanda. È solo allora che sai di aver trovato qualcuno davvero speciale. Quando puoi chiudere quella cazzo di bocca per un momento e condividere il silenzio in santa pace. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto, ho capito già te ne stai andando. Dici tanto, ormai per te non piango più, fallo te. Se un gatto allisciavi lo schermo del tuo telefono. Non ho più visto il meteo ieri. Non voglio uscire, ho dei pensieri da sopportare. Pillole, pillole, prendo pillole per stare calma. Non mi fido più di nessun'altra. Tengo paranoie nella tasca e giro termine aspettando te. Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza. Sento qualche cosa che mi manca. È da quando tu mi hai detto basta. Che giorno termina aspettando te. Sembra che siamo fatti per soffrire. È il nostro destino, nella tua destino, nella tua destino, nella tua destino. Thank you.